si rivede. Guarda un po' chi c'è in questa stazione. Che numeri che ho fatto per te. Che la vita è strana, lo sapevo già, ma non mi aspettavo di fare questo viaggio con te. E poi c'è di più, c'è molto di più. C'è che quel pancione, e che sorpresa è. Se la solità, e sei la stessa ma non avere fretta, che sei stata un po' più svelta di me. C'era chi diceva che fosse solo poesia, se mi convinceva cadevo nella nostalgia. C'era chi diceva ma in fondo è solo colpa mia. Se la vita fredda io la lascio scivolare via. E poi c'eri tu, e poi c'eri tu, che alla vita senza impegno chiedevi di più. E poi c'eri tu, e poi c'eri tu. Come vola il tempo, quasi quanto te. Siamo già arrivati, ti accompagno da. Se ci rivedremo, questo non lo so, ma chi lo può dire? Strani gli scherzi del destino però. C'è una bimba in più, c'è una bimba in più, c'è una bimba in più, c'è una bimba in più.